pranzo di solidarietà organizzato dalle cucine popolari. Alle 16.30 in Piazza Maggiore i concerti di Elvie and the Garden House, Murubutu, Aprella Class e tanti altri. E la diretta di Radio Città Fujiko. Lavoro, diritti, Stato sociale. La nostra Europa. Il 1° maggio a Bologna. Per te che sei un appassionato di Cannabis Light, finalmente c'è New Cannabis Shop. Sì, il primo Cannabis Shop a Castelmaggiore. Distributore aperto 24 ore, consegna a domicilio, infiorescenze, special hash, tisane, oli rilassanti, biscotti, tutto alla canapa. New Cannabis Shop, il meglio, sempre a disposizione. A Castelmaggiore in via Gramsci 302. New Cannabis Shop, passione canapa. Festa della Liberazione all'Ippodromo di Bologna, per grandi e piccoli, per condividere storia e memoria, racconti di storie partigiane e laboratorio di canti popolari, giovedì 25 aprile dalle ore 15 durante il pomeriggio di corse, per i bambini, maxi gonfiabili, animazioni e giochi nel parco, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, cavalli, emozioni, festa. Rimani sempre informato con Radio Città Fujiko. Hai tante opportunità, come i giornali radio. Alle 9 le news dal mondo con Radio Bullets. Alle 12.30 il GR Generale Iskra. Alle 17.30 le notizie locali con l'Agenzia Dire. E alle 19 il notiziario politico sempre dell'Agenzia Dire. Ma l'informazione sui 103.1 non è ancora finita. Alle 7.30 la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Alle 9.15 la rassegna stampa estesa e commentata di Radio Zanardi. Alle 17 l'approfondimento dell'indigesto. E alle 17.40 Daily Focus News, più tantissime altre rubriche settimanali. Scopri il nostro palinsesto su www.radiocittafujiko.it.

Ben ritrovate, ben ritrovati con Vallun, ben ritrovate, ben ritrovate con la diretta di Radio Città Fujiko da Pratello Resiste 2019. Abbiamo ascoltato un pezzo straordinario di Ludalfin, un gruppo occitano che ha conosciuto un certo successo negli anni 90, adesso ai noi un po' meno, io li seguo sempre con grande passione, e riprendiamo il filo della nostra rassegna stampa su antifascismo, resistenza, 25 aprile 1945, 25 aprile 2019, di cui abbiamo un grande bisogno. Prima di aver ascoltato il pezzo di Ludalfin, Olga ci aveva raccontato una storia, una biografia di una partigiana bolognese, e noi proprio dal filo delle storie di vita, delle storie di resistenza che sono stati anche percorsi biografici, riprendiamo per rientrare sui nostri giornali. Abbiamo speso parecchie parole negative sulla Repubblica, abbiamo speso tante parole positive per il Left di questa settimana. Su una storia di vita che su Left che viene citata c'è quella di Lea Schiavi, giornalista antifascista, un articolo di Anna Ditta, che venne uccisa in Iran il 24 aprile del 1942 e fu un omicidio politico, ma la sua figura resta ancora sconosciuta in Italia nonostante abbia pagato con la vita per le sue idee antifasciste. È una storia interessante quella di Lea Schiavi, per l'appunto è una storia di donna partigiana, donna resistente, donna antifascista, che come spesso vengono un po' dimenticate vedendo un'iconografia molto maschile del partigiano col fucile, ma la resistenza è passata per tanti canali, e vi invito veramente a recuperare questa storia, perché è una storia anche di spionaggio, di servizi segreti. Lei era partita verso l'Iran con la parte degli italiani che si erano rifugiati in Gran Bretagna alla ricerca di un carico d'armi indirizzato ai nazisti. Storie di vita che viaggiano su contesti diversi, un po' inaspettati. Mi prendo la libertà di citare, nonostante le ragazze della redazione me l'avessero voluto impedire, un bell'articolo che era uscito ieri sull'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica qua di Bologna, però fa una meritoria, un meritorio excursus sulla resistenza norvegese, perché l'antifascismo non è stato solo nell'Italia e non solo nei paesi che si affacciano nel Mediterraneo, ma anche altri sono stati. Anche i paesi nordici sono stati attraversati dall'incubo del nazismo, e uno di questi è stata per l'appunto la Norvegia. L'Avvenire di ieri, in un articolo a firma di Alessandro Zuccari, riporta la storia di Peter Moen, una figura di riferimento della resistenza norvegese, di cui è stata pubblicata in Italia ad oggi il testamento spirituale. Nell'articolo infatti si intitola La ricerca di Dio nella Oslo occupata. Non entreremo nel dettaglio dell'articolo, perché lo lasciamo a chi è più interessato a questioni spirituali. La cosa bellissima che viene citata in questo articolo però è la maniera con cui venne scritta e composta questo testamento spirituale. Peter Moen era prigioniero dei tedeschi e ha scritto il suo testamento su dei foglietti di carta, quella che veniva utilizzata per andare in bagno, con dei bastoncini infuocati, l'ha arrotolati uno a uno, l'ha lasciati cadere in un condotto, lui è morto, ucciso dai nazisti, un suo compagno dopo la guerra è andato a recuperarli per ripubblicarli. Una storia molto toccante che vi invitiamo a recuperare. Sempre sulle biografie e le storie di vita, facciamo un ultimo riferimento a due articoli che sono usciti in un altro bel supplemento del Manifesto, che è uscito ieri, Fazzoletti Rossi, in cui si fa riferimento ad Efistione, Gastone Malaguti, il penultimo sopravvissuto della mitica Settima Gab, la brigata comunista Stella Rossa, che è la divisione che scacciò i tedeschi nella battaglia di Porta Lama a Bologna, e che ha un titolo straordinario di cui adesso vi parleremo. Per ogni partigiano ce n'erano almeno 30 persone che ci aiutavano, così abbiamo vinto. E sulla stessa linea, fra virgolette, c'è un articolo di Claudio Canal, sempre contenuto in Fazzoletti Rossi di ieri, Nuto Revelli e gli archivi parlanti dei vinti, ieri e oggi. Nuto Revelli è stato un ex militare, un comandante partigiano, è stato un intellettuale, un grande scrittore che ha dato voce al mondo dei vinti, per l'appunto, quelle persone che hanno pagato sulla propria pelle il prezzo della storia, contadini, soldati, persone semplici. Anche queste voci hanno senso di essere riraccontate, e perché raccontano una forma di resistenza. L'articolo di Canal racconta con un po' d'amarezza quello che, com'è cambiato il mondo dei vinti di ieri e il mondo dei vinti di oggi. A proposito di biografie partigiane, io vi racconto in pochi minuti quella della Brigata Maiella, perché la Brigata Maiella è molto importante per Bologna. È la prima formazione semi-partigiana che arriva da Porta Mazzini, dove già ci sono i partigiani, arriva con l'armata polacca. La Brigata Maiella è una storia un po' particolare, un unicum nel panorama resistenziale dell'Italia, ma anche dell'Europa, perché è una formazione non partigiana, nel senso non fa guerriglia, ha una divisa ed è al soldo degli alleati. Noi diciamo che sono partigiani perché nascono come partigiani, nascono sui monti della Maiella. Se qualcuno conosce un po' quelle zone dell'Abruzzo, nel lato chietino della Maiella, Casoli e vari altri paesi che erano tra il 43 e il 44 nella linea Gustav. La linea Gustav era quella linea che andava dall'Adriatico al Tirreno ed era tra il Lazio, appunto, l'Abruzzo e sopra Cassino. La Brigata Maiella si forma con una quindicina di uomini, contadini, operai di quella zona, e con un comandante che si chiama Ettore Troilo. Ettore Troilo è il segretario, già nel prima del 24, di Matteotti. Ettore Troilo fa un miracolo, cioè chiama questi uomini e convince il comandante delle truppe alleate e gli dice che loro possono essere, se loro vogliono essere con gli alleati. Gli alleati incredibilmente dicono di sì, e la Brigata Maiella, che man mano che va avanti si ingrossa, è proprio al soldo degli americani e degli alleati inglesi. Una volta liberato l'Abruzzo nel giugno 44, loro potrebbero tranquillamente tornare a casa. Questo non succede e arrivano fino al giugno, al maggio 45, fino in Piemonte, dove c'è l'ultimo baluardo della resistenza. Un'altra cosa che è importante per l'Emilia Romagna è che lo scioglimento ufficiale della Brigata Maiella arriva nel giugno 45 a Brisighella, in provincia di Ravenna, quindi la brigata è legata davvero a doppio filo con gli emiliano-romagnoli. Qualche giorno fa, il 17 aprile, ha compiuto 98 anni l'ultimo ufficiale della Brigata Maiella. Lui si chiama Gilberto Malvestuto e ha lasciato una brillante, oserei dire, rispetto al panorama odierno, intervista all'Ansa. Io ve ne leggo alcuni spunti giusto per farci capire il carisma di queste persone. Lui dice: eravamo animati dallo spirito della libertà, volevamo la democrazia. Ecco perché oggi, quando vedo quegli sciocchi che fanno il saluto fascista, mi rendo conto che non capiscono nulla, che sono dei cretini, che la storia non è entrata nel cuore di questa gente. Continua in altri brevi passaggi. So solo io che esperienza fu quando il mio plotone ci mandò vicino a Bologna per tirare fuori da un fosso 10 partigiani uccisi dai fascisti. Mi ricordo ancora il fetore emanato da quei poveri corpi. E continua con altre cose e alla fine aggiunge: la libertà è troppo bella. I fascisti erano forti con i deboli e deboli con i forti. Bene, direi che siamo verso la conclusione. Volevo giusto aggiungere due parole in merito alla questione resistenza. In tutte le puntate che abbiamo fatto su antifascismo, fascismo, partigiani e resistenza, abbiamo sempre cercato di mandare un messaggio, ovvero che la resistenza non è stata solo un gruppo di uomini armati sui monti, ma ha avuto tantissime sfaccettature, e questo vuole anche essere un po' un messaggio per il presente. Essere resistenti, essere partigiani oggi, come lo è stato tra il 43 e il 45, oggi si può fare in maniere diverse. C'erano migliaia di donne che hanno portato avanti scioperi nelle più grandi città industrializzate d'Italia. C'era chi portava avanti la resistenza civile nascondendo i partigiani e i combattenti, chi dava da mangiare, chi consegnava la stampa clandestina, chi semplicemente non si arrendeva, chi stava zitto quando i fascisti passavano, chi faceva saltare i ponti e chi ai nazisti ha proprio sparato. Bene, ieri come allora, essere partigiani e essere resistenti lo si può fare in tantissimi modi. Speriamo di avervi dato tanti spunti di riflessione per questo 25 aprile, e ancora tanti auguri dalla redazione di Valun, e coraggio. Bene, allora buon proseguimento di giornata a tutti e tutti da Frey, Olga e Debs. Ciao e grazie, grazie a tutti. Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo come Steve McQueen o come il grande Clint. Senza trattare niente con chi ha già fissato il prezzo al mercato dei nostri sogni, dentro i nostri giorni, per la nostra vita. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi. Liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. Dalle bugie, dai debiti, da gerarchie, dagli obblighi e dai pulpiti, squagliamocela. E vuoti d'aria della realtà, tracciamo traiettorie migliori, lasciando le galere senza più passare dalla cassa. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti. Liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. E siamo sempre in diretta dal Pratello Resiste. Fra poco un grande ritorno, l'era del Moroz, con Gianluca Morozzi e Moreno Spiroggi. Poi mi libererò perché ora sono stanco. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi. metti in volta più o meno a metà. La nostra missione è prenderci cura dei bolognesi. Al poliambulatorio privato Ionoforetica effettuiamo lo screening mammografico che comprende ecografia mammella, visita sinologica e mammografia. L'esito è immediato. Per prenotazioni telefono al numero 051 314 04 88 oppure contattaci su Messenger di Facebook cercando Ionoforetica. Poliambulatorio privato Ionoforetica, via Lemonia 47, Bologna. Sito www.ionoforetica.it. Direttore sanitario dottor Francesco Comerci, specialista in urologia. La Pasqua si avvicina e sei già terrorizzato perché tutti i locali saranno chiusi? La Locanda non ti abbandona. Il pub birreria La Locanda di via Treves 19, zona stadio, è aperto anche a Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio per brindare insieme nei giorni di festa. Se rimani in città nei giorni del ponte più lungo dell'anno, vieni al pub birreria La Locanda, non ti lasciamo solo. Hai esperienza professionale nella ristorazione e cerchi lavoro? Un ristorante della Cintura Bolognese cerca, a scopo assunzione, personale specializzato di cucina per turno serale. Per saperne di più e inviare il tuo curriculum, scrivi a alemods@gmail.com o chiama il 339-88-64002. Il freddo passerà i confini e intenzionato. La noia ti fagocita? Incontrare gli amici e conoscere nuove compagnie è più stimolante dello schermo piatto della TV? Vieni all'Harvest Pub di Bologna in via Montello 4A. 6 spine di birra artigianali più una spina Angram inglese originale e una selezione di birra in bottiglia, distillati, whisky e rum rari di altissima qualità. E per non rimanere a stomaco vuoto, tigelle, piadine, panini con prodotti locali selezionati. Harvest Pub di via Montello 4A. Spegni la TV, alzati dal divano e lascia a casa la noia. Provideant, un'azienda al passo con i tempi, capace di farti risparmiare quando serve. Provideant, assistenza e consulenza informatica per ridurre i tuoi costi aziendali, esperienza per migliorare la tua visibilità, realizzare il tuo sito web e gestire le pagine social con un'attenzione particolare alla privacy e alla sicurezza informatica. Provideant guida le aziende verso la crescita e l'ottimizzazione tecnologica con relativa riduzione dei costi. Siamo a Castelmaggiore in via Gramsci 36 o su provideant.it. Provideant, la consulenza per il futuro della tua azienda. Il vino aggiunge un sorriso all'amicizia e una scintilla all'amore. La cantinetta di vino, una grande